provincia. Alberto. E dice che si sente a guardare, come dice, ma lei non è lì, e lei le ha fatto ciao! Non so cosa faccia con la faccia, mezzo metro 85. E credo mi faccia la faccia, ci hanno fatto un sorriso tutti e due e basta. Anche tu lo conosciamo in Bundiri, canti di Riusa. Sì, ma tua moglie non è alta come quella. Misura a palme la gente, la tali. Io ho visto una volta un tipo basso basso, ha avuto un incidente con uno grosso. E quello basso c'aveva anche la ragione, quello grosso ha detto ti spacco la faccia, bastardo, non so che cosa ti devo visto basso, ha brincato le macchine e tu la vada bene a faccia e l'ha rapata in terra. Sì, già lo so, quello pure mi conosce uno che fa una macchinetta a questo buco. Ed è Michelino, se tu lo vedi, cazzo, ma è una macchinetta. Il ragazzo scrive si chiama. Sì, non parlate di box, che io sono proprio Alessandro. Ciao Alessandro di box, per far che? Ciao Alessandro di box, diventa campione del mondo, di box, bullo visione io, tanto. Quando vuoi e dove vuoi. Canto di pane di piatti, solo che io c'ho un vizio, io picchio anche con le gambe. Anche la fine l'ho fatta anch'io, ma c'è un problema per quello, io uso i piedi come uso le mani. Ed è un buco, capito? Io pure, quindi allora sono le scintille, tu. Io faccio anche full contact, oltre che karate, capito? E giudo. Natalino chiama Natalino karate. Le punti, l'organismo, basta toccarne uno e va tranquillo che non si alza più. Sì, e un burro con due dita di Portogallo quanto la meraviglia. Questo dipende, dipende sempre se ci arrivi a avvicinarti. Sì, ci arrivo, ma c'è problema per quello. Se tu dicevi io con due dita ti faccio accendere come un pirla. Natalino. Lasciamo perdere, dai. Che non sono diventato compensato così per micio micio bau bau. Natalino, sei un pugilato, ma siccome io ero cintura nera di karate, so anche i punti dove uno deve picchiare per fare male veramente. Natalino, ma che gommata! Natalino, e aspetta, dimmi, Roberto. Di moto, senza toccarti con le mani, tiro un colpo solo e ti boso in terra. Il rubrico è con la fiancia, vedi di bocca. E c'è più una pistola di palla. Ma devi avere la pistola, mi. E non devo essere armato io, perché io non ti manco, se sono armato. E se poi c'hai il coltello te lo faccio mangiare, perché non lo temo. Ma dai, è un Superman, è un Superman della situazione. C'è il principio, allora, Natalia. Ma Falche, dove l'hai fatta la pasta? La matta? L'ho fatta allora. Ho iniziato da piccolino e via Rosello, capito? Accademia Box sulla Marmora. Poi sono stato da Pala, sono stato da Pio, capito? Allora sono stato da parecchie palestre. Ma a parte quello, io c'ho un amico, che è della palestina, che è cintura nera, questo riferendomi a Natalino, cintura nera di quinto down. Quinto down? Sì, no. Down è una cosa, down, quinto down, down sono chi ti malati. Siamo attenti come si parla qua, Gianni, segna anche questa parola. Guarda, dobbiamo stare attenti come si parla, perché? Sì, down. Scusa. Quello è un gatto, capito? Quello è un gatto quando ci alleva, non ce n'è per nessuno. Potete farmi dare in due, no, già, cos'è? Scusate, che stavo ridendo per quella cosa, io già me l'ero accorto. Non mi suonava la studia, e tu lo sei scritto da una studia. Non è importante, abbiamo capito comunque dove voglio arrivare, no? Già siamo capiti, dai, ognuno può sbagliare. Mamma ha fatto prima la risata, fare che non mi posso fare nulla. Che va bene. No, non lo so, sono quei ragazzi malati, no, e non ci scappano neanche perché poverini, è come Dio li fa. Ah, noi, per carità. stupefacenti, anche noi li portiamo anche agli spettacoli, quando fanno, come si chiama, qualcosa, al palazzetto dello sport, fanno diciamo delle, fanno vedere i ragazzi da come lavorano, giocano a pallone, fanno vedere i balli che fanno, tutte queste cose qua. C'è uno spettacolo che si fa ogni anno e ci sono tutti i ragazzi down, li accompagniamo lui eccetera, e sono molto intelligenti e fa... intendiamoci che... ma sai perché te lo dico? Perché in famiglia ne ho una io, capito? C'è una sorella così, capito? Ma è molto, ma molto intelligente, capito? A voglia. A me quando li vedo mi scendono le lacrime, eppure io vedo di tutte, le vedo di tutti i colori, facendo servizio ambulanza le vedo di tutti i colori. Quando li vedo lavorare mi scendono le lacrime, ci credi, è più forte di me. Positivo, positivo. Guarda che hanno un'intelligenza, non dico più della nostra, ma quasi più della nostra. Sì, sì, sono molto intelligenti. Purtroppo sono molto deboli di cuore, so che hanno molto, sono molto malati al cuore alcuni. Positivo, positivo. Dimmelo qua. Noi ce l'abbiamo, vabbè, forse ci sarà poco lui. Gianni ce l'aveva, non so se vedrà ancora, un libro nero. Anche a me l'ho fatto aprire, devi stare attento qua come si parla. Basta al minimo errore, qua c'è gente che sta attenta solo per queste cose qua. Se sbaglia per tu hai detto, abbiamo capito quello che volevi dire, però esci tu down. Subito anch'io segnato il punto negativo. Ma poi parla Gianni, stavo parlando di microfono, ti chiedevo il circuito, ha detto l'ingranaggi, per cui non ti sei, non sei asura. Appunto, no, va bene, no, non è quello il problema, no. Ma sai cos'è, Robè? Che io già ho iniziato a strappare il secondo pagione, magari riuscita con la frase lì, capito? Tutto qua. Che secco. C'è la riserva. No, no, no, vabbè, la riserva non sta fatta, Robè, quello non c'è problema. La riserva non sta fatta. Siamo arrivati quasi, vabbè, lasciamo questo. Ah bene, dai, l'importante è essere lucido, riesci ad andare con le gambe, con l'anche tu, glielo avevo detto, potevi fare accompagnate. Negativo, non mi posso accompagnare nessuno io, tranquillo. Se come, dico boh, basta, ormai piede è fatto e ciccia. Perché non si trova e via? Punto. Ma sono due bisate, così, no, ci sono quelli che magari gli viene l'allegria, di cantare, fa. Ma anche a lui, però poi a una certa ora gli viene il sonno, e a tutti mi dà sonno, quando li pigli un bene, gli hanno preso di pigli a sonno. Altri quali paraoli, all'ancora, non mi fa vedere il marco, un triste. Beh, ma lo dico che quando bevi leggermente ti metti a cantare, c'è il tipo scalzone, così? Io sì, io metto allegria. Io voglio sempre, diciamo, fra me, mi piace scherzare, tenere in compagnia la gente. No, non ne faccio vino cattivo io, sono di compagnia, quando c'è un po' di gente, anche, anzi mi sembra così, mi dà, siccome sono molto timido come persona, mi dà la forza di scherzare con tutti, di cose, di avvicinarmi agli altri e cose, di sentirmi bene, capito? Attenzione, c'è Natalino, abbiamo lasciato in bianco, avanti Natalino, Natalino, vieni avanti. Ma poi ci sono dei travagli, sono amici, gli hanno rovinato amicizia per il vino o per la birra o chi supera, diventano stravaganti proprio fuori di testa, la maniera della forza. Lo so, no, questa gente io l'hai vinto. Ne avevo anche uno io così di amico, quando si sbronzava faceva casino, picchiava tutti, dicevano di smetterla, se le voleva andare da sole non si reggeva in piedi, andavano a prenderla, prendeva a pugni a faccia la gente, insomma, io gente così proprio, io sono gente tranquilla, frequento, a me mi piace più quella che si sbronza e fa ridere, ci tiene in compagnia, ci abbiamo quattro risate. Ma sicuramente sono meglio quelli, oppure ci sono quelli che si drogano ed è meglio ancora, così se ne vanno male, non rompono la scatola a nessuno. E poi ci sono questi mancanti, io conosco anche persone che li fa tipo un allucinogeno, c'era questo ragazzo che conoscevo, gli faceva quell'effetto lì, infattiva, cioè cose che non avrebbe mai fatto da sano, cose allucinanti, cose di blu, di smaglietto, ma acqua o sano. Vabbè, io non è che abbia il vizio, per carità. Bene, anzi, non mi piace. Però ti dirò che quando sono in compagnia, ogni tanto mi piace trasgredire. Però puoi dire, fai una rostita, una seminata, mi piace bere qualche bicchierino in più, così tanto passa un'allegria, ma non da ubriacarmi, roba, per intenderci. A stare allegrotto, così. E a te per le trasgressioni, perché ultimamente ho sentito qualcuno con le trasgressioni, è andato a finire male, è uscito in giornale, non so se l'hai visto. Ma è cattivo. Amico Marrato. Ah, amico Duio. Quindi per me senti che coro? Se lo stiamo mangiando in caldo per questo. Io sono collocato con le donne, non con gli uomini. Ah, io non so cosa ti fa tanto e quindi non lo so. Oggi sono andato in campagna da 80 anni per aprire un lucchetto che se era rotto, dovevo tagliare il campagnaro. E accanto al campagnaro abita una coppia gay, che ci avranno 50 anni. E quando sono passato lì, hanno detto, ma ci pensi? Sono andato con una persona, ma ci pensi? Questi due si coricano insieme la notte, ti giri e ti vedi questa roba pelosa vicino. Mamma mia, che schifo. Ma sono due maschio delle donne. Grazie, ma sei burveso. Ma l'occhetto come l'hai aperto? Basta appoggiarci una pizza, dare un colpo di mano e te già aprimi l'occhetto. No, lo potevi aprire questo perché era una porta in legno, se no facciavi tanto. Sono sceso con il gruppo elettrologico, la moneta hanno già tagliato il tutto. Ma perché se no io l'ho sempre aperto così l'occhetto, ti appoggi la pizza sopra, ti dai un colpo di mattetta, pum e si spara. Vabbè, dipende anche dai lucchetti, a chi si vedono questi lucchetti che ci vuole molto più di una mazzetta. Con la moneta ci prendi 3 secondi, attacchi, disco a taglio sottile, un attimo dello taglio. Beh, in campagna nostra siamo, vabbè, mia figlia ci va, c'è andato un paio di mesi fa, però c'è dentro una casetta che io che non c'entro sono almeno 20 anni, infatti ha detto mamma mia che sai cosa bisogna anche vedere tu da animali, di grossi. Tu non guarda, come ha aperto la prima porta, siccome c'è una porta in ferro e poi c'è un'altra porta dentro. Come ha aperto la porta, già io non avevo mai visto una cosa del genere, dei gecchi, erano allettato, tu i gecchi l'hai visto sono animali rispi, velocissimi. Che non si muovevano, enormi, giganteschi, grassi. Però che mi ricordo anche se questo, me ne piace in campo, viste. Allora sono andato li toccavo per farli muovere, non si muovevano, sembravano morti, attaccati dalle pareti. Alla fine era girato un colpo e ne era girato. Tu vedi questi animali sembravano quando sai sotto l'anestesia, così, non si muovevano. Vabbè, ma non è che fanno niente di gicchiato, ti mangiano di sì. Sì, ma se ne cade dentro il pantalone o dentro il giubbotto, ti altri da fare, io non li temo, ma ne fa lo schifo, se te ne cade dentro il collo, dentro la maglietta, non ti fa schifo. Beh, se per questo una volta in ditta stavo caricando il cartone in vuoti, perché le comasce li buttavano così, anzi adesso li fanno sistemare nei roll, ma prima li buttavano così per lo avevo col furgone. La parte alla serranda, ma li mettevano e li caricavano. Stavo caricando il cartone. Anzi, il tuo butto, ma se mi si usarono di voglia in alta lurazza, ci butto un secchino, perché ho visto la coda, mamma mia! E sono usciti anche dall'ufficio principale, cosa c'è Gianni? Ah, aspetta un topo, non li temo, ma mi è andata all'improvviso, roba, mentre tu mi sa cosa camminando mi sopra l'urazzo, non ti dico cosa ho provato, i brividi mi sono qui. Hanno cominciato, hanno preso il principale, hanno preso due bastoni, ora l'ho preso io. Questa cosa saltava da una parte all'altra e siamo riusciti a prenderla. Adesso c'è qualcuno che vuole entrare, ma di chi è? Sentito un colpo di un apparato grosso comunque, e tu ti sei detto invece? Oh, sono andato a Costa del Diavolo, una volta li abbiamo beccati, li abbiamo messi nelle buste, a grappoli erano, li facciamo staccare da... Ecco, dicevano che erano vampiri, bro. Li ho fatti a casa per prendere mia madre, che cazzo di adesso mi sono disabiliato, ma faccio? Adesso avrei voluto portare una volta, adesso sono andato, c'è la ruota di Mola fa, sono andato tanti anni fa, con degli amici, e poi mi arrivo a entrare dentro questo buco, una specie di, c'è presente tu, un uraghe franato, e c'era un buco, un cunicolo, sono andato, c'entravi solo con la testa, potevi entrarci, in questo cunicolo, sono andato lungo 15 metri, e poi arrivando all'interno c'era una specie di cupola, una cameretta piccolina, tra 2 metri per 2, una cosa del genere. Cioè, mi hanno convinto attraverso questo buco, ci siamo tutti coperti, perché hanno sicuramente bisogno di pistole e cose del genere. Siamo entrati dentro già, ci hanno messo in testa le buste, l'hanno detto, hanno detto, fermo attento, c'è chi si attaccano ai capelli. Tu dove vedi cosa c'è di pistole di dentro? Dentro questo pulicolo che ci passavi solo con, diciamo, con le spalle, la raghetta delle spalle, così, un tubo così, doveva entrare dentro. Se non mi devi fare la mamma, cosa mi dai di lavando? Proprio da incoscienti, perché è una cosa pericolosissima, te ne poteva colare. Siamo entrati dentro, in 1, 2, 3, 4, là, là. Entriamo dentro, poi in piedi potevi stare. E alziamo lo sguardo, illuminiamo, tu lo vedi cosa avrà i pipistrelli. Come abbiamo illuminato, iniziano a correre questi pipistrelli da tutte le parti, saltare, una cosa tipo un film di paura. E stavano cercando la luce, sono usciti fuori perché era tutto chiuso qua, c'erano delle fracche, loro scappano, tu le vedi scappando questi animali, non riuscivi a seguirli con lo sguardo, talmente erano veloci. Abbiamo voluto vedere a te che vi dovete. Io ne ho fatto peggio di quello. Allora, la grotta del diavolo, prima di tutto devi passare sopra una trave e sotto ci sono tutte le stalattiti, appunto se si rompe la trave ci cadono le stalattiti e si infilzano dentro. Sono tutte belle appuntite sotto. E sotto c'è il burrone con le stalattiti e sopra passa questa trave tipo quelle che usano i muratori, per intenderci. Devi stare in equilibrio, devi fare questo pezzo qua, questo qui è l'entrata. Poi devi proseguire per una grotta lunga lunga, sino ad arrivare giù dove mettono tutte le firme, che c'è anche un ristagno di acqua. Naturalmente devi avere visti valori un bel alti, perché tutto pieno di cacca di pipistrello in terra, tutto pieno, zeppo. Noi siamo andati con visti valori alti, ce l'abbiamo riempiti quasi a metà. Fatto sta che siamo arrivati sino a questa grotta e come hai detto tu c'era un punto dove passavi giusto giusto e poi si trasformava in un'altra grotta enorme che era tutta piena di pipistrelli. E la stessa cosa abbiamo fatto, ci siamo messi le buste in testa, quando abbiamo illuminato praticamente io stavo proprio entrando nel buco quando hanno illuminato, i pipistrelli che andavano a scappare si sono sbattuti tutti alla testa mia, capito? Ma non me ne avevo la busta, sembrava, sentivo tu la mitragliata. Non so, infatti tutti dicono fare una, ma se si attaccano i capelli alla fine, perché loro so, si spaventano, inizi tu a tirare e devi stare bene, infatti è meglio metterci le buste. Oh, e a me pensavo quello fare il diavolo, l'ho sentito a nominare, però non ce l'ho presa. E a Burrari, Robè, dove c'è il poligono di Tiroli, dove c'è, come si chiama, la valle dei Ciclamini. Allora, quando eravamo piccolini si diceva, se no la conosco bene la valle dei Ciclamini, ci sono tante da poco, e dimmi da dove si entra. E vabbè, adesso a ricordarmene, si entra da dove c'era prima la discarica, lì passavamo e poi andavamo a piedi, non lo so, tutto a piedi ce l'abbiamo fatta, capito? È una scala di gioco. No, no. Ci cambi di sentire la resistenza, già lo so, devi scendere in giù, c'è la stazione dei pompaggi oppure. Però dimmi, e poi quando andare in chibi, facciamo andare un po' di gente, andavamo ragazzini, però non ci sono mai andato. E lì in alto si vede una grotta, c'entra dentro, c'è una grotta. E noi siamo andati ragazzi e ragazze, tutti insieme a fare gli speleologi. No, guarda, la vediamo bene. Io invece sono andato, c'è una grotta che è già spettacolare, con questo amico ci ha dato la mappa. Però guarda se devi azzuffare, infatti è talmente nascosta che non la vedi, ci passi davanti, proprio a mezzo metro non ci fai caso. La grotta di Molaffa si chiama, ed è una cosa spettacolare, ci sono dei cameroni dentro già, arriva a un certo punto, è tutto calcare, queste cose, queste luci, lucide, lucide, bianche, c'è un ruscello sotterraneo di lì, che è proprio bellissima, l'acqua dolce, buonissima, arriva di so che sono dei passaggi, tipo, ce l'hai presente tu quel film di... tipo Indiana Jones, che ti devi passare sotto, ti devi tenere la testa, tipo di quella rivedente, ci sono dei ripi, è una cosa spettacolare, è lunga 300 metri questa grotta, però quando la fai sembra che hai fatto chilometri, talmente, ma è una cosa bellissima, pulita, non c'è un insetto, un animale, niente, cioè per quello che è bella, sono andato 2 volte a vederla questa cosa. Ma non c'è il gusto, noi siamo andati con le ragazze, quando vedevano le pipistrelle si attaccavano a noi, era quello il mezzo. No, beh, vediamo che pizzini era nel muro, se ne valeva la pena. C'era nei muri, io non ho mai frequentato pizzini vecchi. Sei che tipo Rosimini, te ne dici, me? No, sono stato sempre di buon gusto io. Buon per te, dai, cazzo, perché c'è te si accontenta di poco. No, tu pensa che una volta siamo andati a ballare e abbiamo conosciuto queste due ragazze a Usi, una era... era un po' così. E l'altra era, si poteva anche, se ci si poteva mettere a fare qualcosa. E questa vittoria si è rimorchiato, l'altra mi voleva pioppare, quella che a me non mi piaceva, me la voleva pioppare a me. Sono stato tutto il giorno girando per la discoteca per non avvicinarsi a me. Poi l'abbiamo accompagnata a casa e questa qua si stava polpando e me l'ho allontanata, cioè io ero anche il tipo che mi piaceva scegliere, se non mi piaceva una vestita, poteva magari anche essere non bella, però mi doveva tirare qualche cosa, se no non me la fottia nulla. No, non ne aveva, dico, era un po' più goloso, ma non me la fottia nulla, non mi piaceva proprio. Volete più guasti magari? No, quello no. Era anche ragazzina, mi avrà avuto 16 anni, 17 anni, quindi quando sei a quell'età lì sai che c'hai i brufoliti giovanili, lo sfogo, l'acne giovanile, che cavoli vuoi, anche se non ne ho mai avuto di queste cose, però molti amici miei li hanno avuto. Sì, già lo so. Aspetta, che stiamo pulizzando avanti, Falchetto, e poi... Anzi, prima la carina non ci sei ancora. Però ti trovi in altare in mente. Avanti, fa... ci sono. Ma va, Natali, spero un attimino. C'è un altro microfono. Sei quel cazzo, cosa c'è per me? Tutto qua. Questo non sai che è entrato, Natali. Officina per rompere la moto. In realtà perché non è? Si è messo l'antenna, ha messo la mano, ma non so di capo l'antenna. E per farti sentire questo apparato nuovo che ti sei preso? E sta facendo delle prove e poi fatti cerato. E tra l'altro se ci fosse stato Luca l'avresti incendiato. Poi detto arrivo il Luca, ma chi è questo qua? Perché lui aveva un'altra cara e sentiva che questi sbatte allucinati. E ritornavano un po' di potenza. Dite, non so quanto la devi fare via. Che ne hai spiccioli? E lui è Simone, non c'è Simone. Ho immaginato che era Luca. Ma ha detto fa il sito, dai, quando entra. Poi come è stato Luca, perché sapere se ti conosco, nessuno l'ha riconosciuto me. C'era anche Claudio non l'ha riconosciuto, poi alla fine l'ha detto, l'ha detto un codice, ah tu sì. Perché quella voce era diversa, mi cioè sapevo che era lui, che non ci conosceva molto bene. Però uno male che non lo sente molto, lo dice magari. Con Luca invece dai, mi va a tenere a fare di quando si attacca. E magari quei cioccolati, no, sai come dice, quei soldi che c'hanno l'uovo in mezzo. No, ma ne quelli spiccioli? Ma dirami, erami, tagli in diretta, normalmente chi ne è passato di quella motocicletta nel passato. molto più grande tu dell'età che c'hai. Come è più grande? lui mi ha detto, non so se poi mi ha detto dove si dice, 3-5, quanti anni hai detto? Lasciate, io avevo quasi 5-0. Cosa dice? Non so, forse non l'abbia detto. Ha detto, ma a me sembra una voce molto più grande. Ha fatto, mi ha detto, non so se fa 35 o 36 anni. Però forse stava scherzando. Positivo, scherzava. La musica, infatti ha detto a me, infatti dalla voce ha detto ci avrà dai 45 ai 50 anni. Positivo. Gianni Drone. Non è che hanno da farsi l'iniezione, Natalì? No, da farsi? L'iniezione. L'iniezione? Cos'è? Tossicoma? Allora, grazie. Natale, Pasqua e Capodanno, adesso troppo lo comprano due. Quando è che anni, Natalì? Io pensavo il 25 dicembre. Chi mi ha leggiamo a Donata? Non ti vuol dire leggiamo a Agostino? No, Agostino era Antonio, quello diciamo. Mi hanno chiamato così, se si chiamava così mio nonno. Così è, se. Arrivo già per pochi di cose, Roberto, Bobo. Gianni invece è già nel caldo. Non dovrebbe cambiare mestiere, non dovrebbe fare il poliziotto. Sono pulito, tu sei azienda di tutto quanto, io sono un incognito. Mi avete sentito parlare di cosa? Di templari, non si chiama, non i templari, quello era templari, quelli della. I massoni, non avete sentito nominare? E tu stai attento come ti muovi. Comunque non sappiamo niente, non ti male niente, sei sicura, tranquilla, magari so dei servizi di intelligence. Non vedo niente che va armi, gozo, e cartaggi strani, che magari manco ti immagini. Non so, ma io già ne conosco gente, due persone sicure che lavorano, una non c'è più, l'altra ha lavorato di lì, in quei siti di lì, una addirittura ha rimbombizzato in Russia, mi ha raccontato tutto. Cose più grandi di noi, insomma. Mi ha raccontato certe storie, già, che niente ci immagina, adesso qua non si possono dire, ma cose allucinanti di questi servizi qua, di gente e cose. Lui dice ha fatto una vita da mamma, che lui dice faceva quello che voleva, poteva spendere tutto quello che voleva, relativamente, era, cioè nel senso il migliore alberghi, i migliori ristoranti, poteva fare le migliori, ma faceva affittare le macchine a noleggio, tutto quello che voleva poteva fare questo. Però poi alla fine era bicicletto. Ci ha fatto una settimana in corso, in isolamento, l'hanno messo in questa stanza, mi stavo raccontando, che dice ogni tanto dice tutto illuminato a giorno, per cercare di togliere le informazioni, e poi ogni tanto attaccava la musica a manetta, dice, a concorso la realtà, dice una settimana senza dormire, dice tortura psicologica. Vabbè, tappato, la lei ci sarà due luci, aveva visto se aveva dormito a testa. Cosa drone già? Se ti mettono 200 watt di altro 40 attaccate alla legge, cosa drone? Io dormo con la musica attaccata, mi concilia il sonno a me la musica. Con la musica, il baracchino acceso, mentre gli altri parlano, mi addormento, figurati. Io mi avevo mai fatto una bandina e facevano accendere una luce a ogni tanto. Vedrai che fa. Gianni, una cosa che drumi in mezzo alla musica, rumore assordante, una cosa che ti tocca la musica, tu c'hai 10 minuti di riposo, poi di colpo, tanto che è un classo, ma ti scedi. Una volta mia sorella mi aveva fatto uno scherzo, nella momento ascoltavo sempre le radio ordini di notte, quando era a casa di mamma, no? E mi mettevo le cuffie e ascoltavo la radio. Una volta mia sorella mi ha fatto uno scherzo ben brutto, mi ha alzato il volume di colpo, cazzo mi sono preso uno spavento, gli attacchini li ho dati. Lo sto dicendo già una cosa, allora l'organismo c'ha di buono, che si adatta a tutto, ai rumori, ai suoni, eccetera, eccetera, naturalmente se non sono dolorosi, parliamo di suoni forti ma non dolorosi, però riesce anche a dormire qualcuno, diciamo. Però quando tu sei abituato al silenzio, poi di colpo ti suona un clacson di nave, a ti dici svegli. Ma questa era dei servizi segreti italiani. It. italiani, ma dopo certe cose di certi personaggi che escono in televisione, ha detto mamma mia, gente che si mette in moto, ha detto ma che cacchio sono, quelli non contano niente, è gente che sta solo nelle poltrone sedute, quelli che stanno proprio in operazione, è tutta musica, tutta un'altra musica. Ma ti sto dicendo già, non si possono dire qua certi particolari, ma ha raccontato certe storie allucinanti. E adesso che fine ha fatto Barbone? Barbone. Questo si è sposato con una russa, molto, lui ce ne presente, è del nuorese, massottino, classico nuorese, era una persona fortissima, c'era una forza, se lo vedete mette le mani in testa, proprio di paracadutisti di gruppo San Marco, era una cosa cattivera di questi speciali, gruppi speciali. La moglie è anche tanto me. Il doppio di lui, c'hanno un figlio che ha giumelato con Antonio Rubambo, nel senso che è enorme questo bambino, è diventato un bellissimo, biondo con gli occhi celesti, la moglie lo stesso alta, un ingegnere, anche non un ingegnere, una dottoressa, è molto più giovane di lui, ci avrà minimo 20 anni di differenza da lui. E mi stava dicendo che lui quando era in quella situazione di lì non l'hanno mai cercato, non esisteva, lui ufficialmente non esisteva, dopo di quella morta per l'Italia non esisteva. Lo so. Così, ti lasciano come un randaggio. Vedi, è un potenziale corrutto, questo qua, andava a pulire i voti. No, no, assolutamente già, esattamente il contrario, è stata lì che se l'è attaccata a lui, perché lui è stata una sua ragazza di là, ma lui l'ha lasciata presa, è lì che è stata presa, se l'ha seguito a lui. E vabbè, tante volte lo fanno anche per uscire dalla situazione in cui soli. No, questo era benestante, me l'ha detto anche lui, ha detto, perché poi alla fine te lo dice lui, cazzo, dice non ti ho mai trovato strano che viene una ragazza così giovane, vabbè adesso non è più ragazza, ci avrà penso 40 anni, così lui avrà 65, più o meno 63, e una cosa dice, anche lui se ne accorge, ha detto, non sono stato io, è stata lei, venita lui, lei a cercare a me, perché lui se n'era andato, lei l'aveva abbandonata, lasciata, nel senso che lui le girava a me di questi tipi qua, di tutti i generi, quando c'hai i soldi puoi fare, però dice è stata lei. E il padre e la madre erano ingegneri, gente benestante, lavoravano non so dove, o mandavano chissà che, cioè non era povera poi, lei era quasi laureata in medicina, e mi ha raccontato una storia, nel senso che la moglie le ha salvato la vita una volta, perché le è avvenuto non so cosa, è stata lei a scoprirgli questa cosa, e l'hanno portata subito all'ospedale e l'hanno salvata, lei ha fatto la terapia subito in casa e poi l'ha portata subito per lì, inizialmente è attaccata a quest'uomo. E allora sarà una delle poche. Sì, quella è infatti la cosa, però ti sto dicendo, lui mi ha raccontato storie già che non si possono dire qua, cose allucinanti, che noi ci crediamo molto tu, gli italiani, invece siamo peggio di altri, di altri. Natalì. Natalì non vuole commentare. Natalì non è coso, come si chiama? Che segue gli israeliani, quanti si chiamano? I Mossad. Natalì non mi pare un po' drumito il casino, boh. Allora che mi vuole andare in dubbio. Ma che stavo scopando tutta la terra? Sto scopando in terra. E ho provato la bolletta se si è trattata la scopa a mano. E la voce si è abbassata, boh. Si è abbassata a guido, non l'ha fatto, ma uno che si sta tirando le puglia, Natali, mi non ti ha fatto mai mangiare l'articolo giugno. Disturbato stasera, sei impegnato scompato. Natali, mi ha soprammodulato già. Ma il partito che non ci lasci le cuglie, domani ci troviamo l'articolo tuo sul giornale, mia pagina 17. Sta vestiti normale, vicino ai baracchini di quella fotografia. Avanti sul 30 che vuole entrare, poi si metterà, ma è nulla, comunque visto già il corso di vita, l'aspettativa pareggiare di Natalino. Lo guardi non l'aveva messo allora. Se non questo burro qua. Passiamo sul 21, vai. Io sul 21, vai, Natalino. E andiamo sul 21. Aiuto. Attenzione, 21 si è coperto questa piccola stazione. Ci siamo tutti. Con l'eco. passa allora. No, no, passare non lo passi, però adesso ti ho sentito, tu passa l'elettro per te. Ah, lo passo. Che manca l'elettro? Negativo. Era uno con un elettro, segnalo la luminosità. Lo passava la parire. Sì, sì, alle brezze. Lo passava la parire. Con l'elettro se la giocano comunque, perché c'è niente uno con l'altro. Prova di nuovo, adesso tu sei. Ah, lo passa, lo passa, lo passa. Cosa? Cosa, Romeo, sai lì? Forse arriva a Matteran perché si sentono un po' di effetti speciali. E tu la cadeo chi è che stiamo andando questi effetti strani? Fatti un controllo, qua c'è Santiago 6 Radio 1. chi sei? Sei, dimmi il nome relativo. Dicendo, se si apre qualcosa per farti sentire, vediamo già se sei più favorevole. Già, l'hai sentito? No, non ho sentito nessuno. No. Non posso sentire nessuno. Io non posso sentire nessuno. Vuol dire che c'è splatta. Ah, no, questa voce avessi attenuato la tua. Non so, però non ho capito chi è, mi ha chiesto un controllo, però non ho capito chi è, perché si sente tutta la voce distorta. Guarda, se mi ascolti a me, ripeti lentamente, parla lentamente, se riesco a tirarti fuori, non ho capito chi sei e da dove stai modulando. Ho capito, mi sembra barra nautica, ripeti se è giusto, ma mi maritano con questo male. Stai provando a mettermi le cuffie, non riesco a sentirti bene. No, non stai sentendo, è entrato un pochettino, ma poi non si è sentito più. No, ma no, non lo sento. C'è qualcuno, ho sentito poco, ma non sono riuscito a percepire chi era. Vabbè, è incomprensibile. Oh, vabbè. Pazienza, che te vuoi. Tu, fammi un controllino, per favore, guarda a vedere come ti sto arrivando con le coordinate, cambio. Scala, sei, diciamo che sei quasi 9, sei. La radio è buona, non riesco a capire che si va. Ehi, cappa, riprendi Rubi. Danni, Natalino. Sara. Ehi. Cappa, a chi sei, sì? E a chi sono? Sono sempre qui. Cappa, me l'ho parlato. Cosa? Non lo ascolti la pappa al chetto. Te la scuola. Un po' più lungo. cosa fai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, guarda un po', Roberto, come sto uscendo? Adesso sei andato bene. Però forse non scacci bene perché ti mangiavi le parole a momenti. Guarda adesso se mi sto mangiando le parole. No, non gli va bene adesso. Aspetta, voglio capire chi è questo qua. Attenzione, canale 21, chi chiama? Avanti e fate sentire. Dai, non sta parlando adesso. Dai, chi c'è? Gianni o Antonio? Avanti, Antonio. Ciao, Roberto. Ma tu di poco fa venne voluto con questi effetti strani? Come ecco tutti questi tipo fischi, cose strane? C'era un segnalone allucinante. Infatti ho detto questo è vicino a me. Tranquillo, ci stavo mangiando, al limite posso voltare a fare un paio di minuti sopra me la birra. Posso vedere per faccio un punto con l'ecco. Avanti break. Sentito dopo un po' di tempo, dai. C'è anche Antonio, poi c'è Natalino, Gianni, Falchetto, Antonello, l'ha nominato, poi aspetta chi c'è, poi c'è uno bassissimo che non si capisce chi sia. Di nuovo, guardate, Antonio per Capri 2, sono ascolti. Io purtroppo non l'ascolto a Capri 2, comunque gli mando la buonasera. Renato. Avanti Gianni per Capri 2. Vediamo se è entrato, così facciamo un riepilogo. sono andato a Semino, a QTH piccolo. Ehi, poi per poco c'è? Non lo so, se c'è. Dipende dalla tua Capri. Ho parlato poco fa con Gianni Doppio Rubio, dice che sei appassionato di restauro di cosa, moto d'epoca, così. Thank you. scusate. Chi è? Gianni da Itri. Gianni da Itri, sì, vabbè, Falcone da... Signo. Grazie, scusate, ha schiacciato la portata nel buco sbagliato. Ciao Adriano. Ciao Adriano, scusatela. Che figura. Che figura che ho fatto, vabbè. Ciao Adriano. Problema, non ti preoccupare, se vuoi rimanere rimane. Capri, io come arrivo dalle tue coordinate? Con i picchi a 9.10 e a quello più forte di me arriva Muros. Ascoltiamo tutte le migliori, ciao ciao. Quindi so come è fatta. Adriano. fatto lei? Ma adesso vedete, c'è la mantova 1, la mantova 5, sono gli stessi radiali, c'è gli stessi radiali. Mi davano come tiro per la sigma di X. La sigma di X fa un po' di sì, anche quella era spiralizzata. Probabilmente hai ragione tu. Lo stavo usando, stavo parlando con un software l'altro giorno, che tanti di cosa bisogna fare per ottenere un quarto d'onda raccorciando, effettivamente uscivano i radiali della mantova 1 e della mantova 5. Mantova Turbo ci aveva avuto la bella idea di metterci un quintale di radiali, 20.000 radiali di capire alluminio, se avevano cazzati, perché sono mantenuti da un pezzo di lamiera zingata che dura due giorni. Esatto, così è vero. Ha contatto con l'alluminio, si mantisce l'alluminio. Però se tu posso di avere quella cosa di ci metti 5 radiali di gran premio, che sono due la bobina di 5 cm, c'ha il pari guadagno della superlepe, tale uguale. Te l'appoggio Antonio, sì, è una cosa che avevo fatto qualche anno fa. Avevo messo addirittura 2,85 metri radiali, un quarto radiale da 2,85 metri. Poi devi capire che ultimamente il clima è un po' cambiato. 15-20 anni fa non c'erano le trombe d'aria, e adesso sì. Ti dico che a terra tutto gli altri. Sì, ho capito. Però nella superlente e nella lente c'è la fusare, il pezzo li puoi recuperare, perché difendono, ho capito. Ma perché non si può recuperare la gamba vecchia, infatti cosa ci mette gli altri? Ed è perfetta. Quando QRT da parte di un saluto un amico e io faccio QRT perché per questione di trabacco, dai, salutoni a Antonio e salutoni a Pierpaolo, dai, salutoni a Gianni se è in ascolto, salutoni a tutta la ruota, dai, ce la riascoltiamo tra di noi, ciao ciao, buona notte a tutti. Ciao, buona notte, ci sentiamo, state bene, buon lavoro con tutto. Ma non è la falchetta che ha salutato? Sì, la falchetta è fatta, Antonio Falchetto si chiama. E padre che sta facendo quelle sì, che non voglio andare a lavorare. No, lo prima è fatto, non penso che fosse Antonio l'altro. Ciao, padre, sentiamo alla prossima. Scusatemi un poco perché stavo cercando questi cavoli di roba che non uso. Ho preso a cercare in maniera strana pure i radialici. Non va bene che sono cose che invece a suo tempo ho regalato io pensando che non mi sarebbero mai servite. Però d'altronde io si può conservare la roba e se non mi fate ricchiere per dire le dai. Io ho dato e poi molte messe non a me e attacco a questo velino. Ciao, fate che vediamo la prossima. Avanti Antonio. Sì, è una specie di... qualcuno S9 vuole entrare, non sarà Antonio che non fa scendere il radio. Lo prendiamo bombolo, tu sì. Segnali su, quasi 9. Meglio un po' tu, Antonio. Io non lo sento quello della prima figlia. Ciao, per i due. Adesso, era un segnale quasi nove, pensavo che fosse anche un mio bombolino, penso. Non tanto faceva portato, buono, non sto uscendo, non so se puoi rispondere. Allora, l'amico di Muros ancora non ha chiuso, pensavo avesse chiuso. Adesso l'amico di Muros, se mi ascolti, in QRK, grazie, buonasera. Ci sia un autocontrollo digitale nel momento in cui un delitto non lo senza parola, perché è veramente una cosa sgradevole in tutti i punti di vista. A me non piace, io ripeto, ribadisco che uso il computer esclusivamente per lavoro, basta. Non mi interessa andare nei siti, non mi interessa andare a rompere le palle a nessuno, non me la frutti nulla, come che non ce l'abbia, guarda. Ma solo il mio, la mia posta elettronica, il mio nominativo, che tra l'altro hanno anche registrato, ho anche fatto registrare a livello internazionale, quindi proprio per far sì che se qualcuno fosse in grado di dubitare o fare il mio nominativo, perché quello che io su corrz.com c'è solo discale.it in più, venga automaticamente annullata la conversazione in tutti i punti di vista. E queste sono cose molto importanti che secondo me sono valide per quanto riguarda il Ministero delle Telecomunicazioni, perché di quello si parla. Quindi se hanno preso questa decisione, ben venga, e se vengono altre decisioni, ben venga lo stesso, in modo che qualcuno capisca che sia la parte digitale che la parte analogica delle trasmissioni devono essere fatte in una certa maniera. Diversamente non li vogliamo bene dopo quello che è successo, perché è veramente vergognoso che una persona che ha fatto 100.000 persone, come quanti erano, 30-40.000 persone, così in una piazza come quella di Milano, e possa aggravare una situazione del genere con 10, 20, 30, 40, 100 guardie che fanno sì che la manifestazione si svolga nel maggiore di nuovo, diciamo, nella cosa più bella che possa esserci. Quindi la decisione è questa, poi per loro quello vogliono fare, io sono contentissimo, alla grande, ti ripeto, non c'ho niente da guadagnare, niente da perdere, tu chi ce l'ha a perdere ci mette la mutande di ferro, vai Franco. Elia, mutande di lamiera si mettono, come dicono a Cagliari, si mettono le mutande di lamiera, e questo candela la ferramenta. Mi sento anch'io, vado a mangiarmi un pezzo di cose, di se è fresco, lo prenderete, torno subito. No, magna, allora, che ti vedi come vinto poi, per... Io mi volevo... Se continui a mangiare, Lugariere, ti metti grasso, poi non ti vuole nessuno, ti metti una botte di ferro, ti metti. Vai Claudio! Thank you. essere operativa, ma a Paoletto non l'ho più visto. Mi ha chiamato oggi, comandante mio. Il comandante Indovio, quello della polizia, comandante Indovio, non l'ho più visto, ma lo stavo cercando, lo stavo, non lo so. Mi ha chiamato oggi. Mi ha chiamato oggi e sono arrivato alle vise. Sto preoccupandosi. Ma come non vado a un foglio da compilare, no, mi dico da più, l'ho perso di vista. Adesso ho visto che sta facendo il nuovo di ronda, no? Sì, sta un po' l'ufficio, poi esce lui, ma è fuori dalle pattuglie, non va più. Quando è passato sopra il tenente, non fa più servizio a macchina, fa un po' servizio a piedi, ma si briga anche per le commissioni. Ho visto stamattina alle 8, e stavo montando il servizio da Walter, che si esce in macchina, e stava andando lì a Santa Maria da Vazzacchia, stava andando perché dice che doveva arrivare il baravan dei Sulli, e quindi fanno servizio lì. E poi aveva roba da fare a piedi, e verso le 11 mi ha chiamato. Io andavo a vedere la mia divisa, in Vittoria, che non avevo più divisa. Invece non ci sono andato perché non arrivava. Passavo io a voglia, andavo domani mattina, intanto devo uscire. Perché qua ti serve? Ah, quel foglio là. Come se vuoi te lo porto io, non c'è problema. Vado a parlare anche con lui, volevo dire cosa, vabbè. Comunque, ma Walter non c'è più di quella compagnia. Ora ha fatto il trasferimento a Sassari con lo sale. Walter ha fatto il trasferimento a Sassari. Forse un po' più piccolo stamattina, non lo sono ancora un po' indietro perché non ho ricevuto ancora l'arma. E non credo che adesso un braccio armatico, non credo che li inviano loro, noi ci facciamo servizio a Rubia, quindi un po' diverso. Facciamo poi servizio alla porta, un po' diverso del baravano. Te l'ho spiegato, no? Infatti anche lui mai perché doveva andare. Venerdì mattina, però sabato mattina, alla divisa, perché lui è quello appunto che è stato, ha fatto un cambio, con lui e loro, e dipende da Urbia, lui dipende da Sassari, è una scelta sua, non so cosa dire, io gli ho già spiegato, che... Non gli ho spiegato, io per fare servizio nella metropolitana urbana preferisco non farne. Qua a Sassari si occupa solo di quello, con oggi ambiente, non fanno altro che rompere il culo alla gente per la bombezza, per i cani, a me non me la fotte nulla, io sono amante dei cani e quindi non me la fotte nulla. Io faccio un altro tipo di servizio e sto puntando in alto per altre cose che mi interessano. Baricciuti sono armati, caro, sai? Tu c'è dove c'è armato, però devi detenere il porto d'arma, non avere il porto d'arma praticamente per detenere il fucile, se no non lo puoi trasportare il fucile in macchina. Oh, ci hanno la detenzione ministeriale, come ci abbiamo noi, come c'hanno i carabinieri, come c'hanno la polizia di Stato, per tenere le armi dentro la tua macchina. Uguale come noi, perché noi le trasportiamo da centro. Vabbè, io sto montando il servizio, c'è la fogolina e ce l'ho presso. Se sono in servizio è chiaro, te le tenere a casa chiusa e custodita, no? Era buccia, un buccia in giro. Uguale fra. C'hanno un permesso ministeriale dato dalla prefettura. Sono in servizio a divisa come noi, anch'io ho molto in servizio a Urbia, c'è la follerina a divisa, quindi se sono in servizio la devo tenere custodita a casa e basta, non posso portarla in non lo fanno servizio, ascoltami attentamente. Finanza, roba del genere. Polizia penitenziaria, intendo guardia di carcere, non possono tenere le armi addosso quando non sono in servizio. Possono tenere la pistola solo quando sono in servizio e basta. In borghese non possono tenere l'arma addosso, capito? Esatto. La stessa cosa siamo quello sulla Mario. Che ne tiene la pistola solo all'interno del carcere, fuori dal carcere non può tenere. Non so, uguale, precisa identica a noi. Stesso procedimento, non so quale procedimento sia ministeriale perché non ho letto neanche il decreto. Però uguale. Io posso tenere solo l'arma al momento in cui monto la divisa, al momento in cui sono di servizio. Perché tante volte Mario smonta il servizio, è ancora in divisa, ci vediamo, che sei che sto parlando con Mario. Polizia penitenziaria non ce l'ha presso la pistola, ce l'ha la deposita in armeria. All'interno del carcere, non prenderanno solo quando è all'interno del carcere e basta. La stessa cosa è da noi, solo che da noi siccome non c'è un'armeria, quindi ce l'abbiamo in dotazione e non possiamo portarla fuori da casa. Quindi, l'ho fatta fuori l'altro giorno, io ce l'ho all'interno del Brava e lì devo rimanere. Quando monto il servizio, fa porto una... eccetera, quelli sono dei pubblici ufficiali vincitori di concorso, quindi appartengono allo Stato, per un'altra cosa. Noi abbiamo un corpo a sé, anche se a convenzione della prefettura, con il prefetto che è andato, mandato assieme al ministro degli interni, e quindi è una cosa un po' diversa. Loro che appartengono, noi non apparteniamo al ministro degli interni, e quindi sono detentori di arma anche non essendo in servizio. Esatto, è quello che voglio dire. Anche la polizia penitenziaria all'interno del carcere, ritengo all'interno del carcere che sono carcerati o tutto quanto, non possono detenere nessun tipo di arma. Loro devono trasportare l'arma addosso quando praticamente fanno fuori il servizio, cioè che si spostano con la macchina, allora sì, però loro all'interno del carcere detenzione di arma non devono neanche avere, non ne possono tenere, capito? Sì, lo so, ma come stai dicendo tu, gabinetti e quelli sono dipendenti del Ministero degli Interni, quindi un'altra cosa. La penitenziaria è dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi sempre il Ministero degli Interni, però è un dipartimento a parte, quindi hanno un compito diverso. Siccome lavorano all'interno di una struttura, sono armati solo all'interno della struttura, non hanno nessun, sono sempre, infatti non ti possono arrestare. Perlomeno ti possono fare il fermo al momento in cui succede qualcosa, però chiamano i carabinieri, non mettete la manetta. Ma sono qualificati perché hanno il tessino tipo quello che giù io, con la pacca, eccetera. Quindi sono sempre come si chiama? Sottufficiali, ufficiali, guardi di PC. Vabbè, è un compito diverso fare, cazzo, c'è un lavoro all'interno della struttura, quindi, ma cazzo, i carabinieri, il corpo più grosso è quello dei carabinieri, c'entra a fare, i carabinieri possono fare il cazzo per lui, non c'hanno pieno potere, la differenza di prima, che l'esercito italiano va lasciando attento i carabinieri, è scapitato da me. 2 o 3 settimane fa, ma ero proprio davanti a me, quindi ho uscito lì di casa tua, di fatto che c'era via Petrolica, e c'era il tram che stava girando via Petrolica, scendendo lì da via Pino, no, via Pino, cazzo di ecco, vabbè, dalla parte alta, e si è fermata questo appunto, erano in due, appunto lì c'è il gatto e mi sono antennato un po' di lungo, ho detto io dietro perché dietro a me c'era un'altra macchina. Ero col comandante lì, ero già, gli andiamo a prendere un caffè, ma per il caffè di nostra, lì c'hanno la spacciolo. E poi gli ha detto, scusi, come va un bagno a parlare? Dice, guarda, dice, guarda, a destra, non mi si fa che la vita in borghese, quel bello. Oh, mi, ma mi si bagno, non mi raccomando, non c'è, tu non ti preoccupare, vai tranquillo. Thank you. c'è la maggior parte di queste persone che sono un po' violenti, che sono un po' anche incurate, nel senso che insistono, fanno. Se uno ti dice, vai tranquillo, vai, non è niente, anche mi da poco a Corte Santa Maria con l'aria. Che siamo andati a Corte Santa Maria, l'aria stava andando a parrucchiere, io mi ho fatto un giretto. Le ragazze hanno pizzicato, non la faccia da lui, lui dice che era venire il 28, quando si è attaccato, giù, alla vita, boom, e io vedo come, ma come mai sei così coglione? Se ti dicono, lascia, vai, non mi serve niente, ciao, arrivederci, con molta educazione, perché sono abbastanza anche educati, e tu insisti, alla fine, cosa fai? Alla fine si presentami, ma li porti tu a fare certe cose, no? Quindi, se uno ti dice non voglio niente, ciao, vai dimmi, cazzo, cosa c'è anche via piscina, gli enti, lo vuoi un paio di calze, lo vuoi la cindina, lo vuoi quello, lo vuoi quell'altro, vai dimmi, non è un sistema di lavoro bello, secondo me, perché lo porti tu poi magari a uno che indossa una divisa che è in borghese, a dirti cazzone, rompi due le balle, vai e gira, me li bimbrisci. Nessuno ha visto niente. Sant'Arcane dall'ora di pranzo che ha andato a mangiare, sai, quello che abbiamo visto l'altra volta com'era. È morto. È andato a mangiare all'inizio prima di chiudere l'officina. Tre metri quando è entrato il cane era vicino alla seconda. Sono stato un po' con Walter, con Antonio, con tutta la tutti, dove è stato verificato anche da parte dell'assessore ambiente, che è veramente uno scempio. Non si possono nel modo più assoluto tenere degli animali in quella stanza. Sono 4, 5, anche 7 gabbie, tutte gabbie, non parlo di stalli veramente abilitati per tenere dei cani, sono delle gabbie vere e proprie di 2 metri quadri, dove il cane non ha nessuna libertà, non ha nessun movimento, né niente. Quindi spero che il più presto possibile fatta il cane di uso, che è veramente un albergo per cani, perché è veramente bello, ci sono degli stalli grandissimi da 6x6, dove il cane è scorata, fa, si diverte, c'è un parco giochi dove i cani, chiamiamo parco giochi, ma dove i cani giocano, puoi andare anche tu padrone, lo puoi dare anche in affidamento a loro, però settimanalmente, giornalmente puoi andare a vedere il tuo cane, ci sono, devono entrare anche delle persone lì abilitate, gente, c'è il veterinario fisso dalle 8 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6, fanno i turni, proprio i turni come un vero ospedale, dove il cane veramente gode di ultima salute, quindi spero che parte più fretta possibile con la struttura, perché è veramente bella, ma lì c'è un vero cane che avrà, sì, lo vedi, un giorno ci andiamo, perché conosco il guardiano, conosco tutti lì, guarda, è veramente una cosa da brivido. Quel canile che stai dicendo tu qua, praticamente, prendendo il discorso, qual è quel canile tutto in legno? Sì, dove c'è la motorizzazione civile, dietro la motorizzazione civile, ma c'è un maroganile, ma guarda, secondo me di canile non ha assolutamente niente, è un ricovero per cani, tu devi vedere l'estate, come tengono quei cani, perché talmente il caldo che c'è, talmente l'ammasso, proprio chiamiamolo ammasso, di cani, morendo dal caldo, che addirittura ci sono gli irrigatori d'acqua veri e propri per innaffiare i giardini, per mantenere fresco le baracche, quando neva tutto andà, che un cane lascia la bocca. Un casino, figurati. Allora, io sono andato a fare a eseguire dei lavori giù a Coso, a Rubbia, a Canile Europa, ti posso dire che c'è un canile allucinante, tutto fatto bene, tutto pulito, ci sono delle persone che lo curano molto bene, gli animali vengono tutti lavati, puliti, le stanze degli animali tutti puliti, disinfettati, curati, qua è una cosa allucinante. Guarda, se abbiamo 2 minuti, domenica ti porto, perché mi pare che domenica ci sia, non ricordo cosa che mi ho letto, c'è qualcosa, comunque lì era la nuova canina lì che stanno facendo luce. Ci sono dei lavori, stanno ultimando, proprio stanno lavorando per completarlo, è già finito, è strutturalmente già finito, c'è ancora qualche cosettina da completare, ma c'è la casa abitabile del custode, casa vera e propria, c'è un depuratore piccolo con una griglia assolutamente, un piccolo depuratore, un decantatore dei liquami, dove poi va aspirato l'autospurgo giornalmente, settimanalmente, poi si vedrà, insomma, il flusso dei cani. Ma è un canile, non ci sono 600 cani, Beh, 600 cani sono parecchi, Un bel. Volevo visto io Canile Europa, è enorme, non so se ci sono mai andato a vederlo lì, facciamo la Perluri. Io ci vado lì per fare la manutenzione qualche volta. Allora lì loro usano delle pentole a gas da 600-700 litri, mettono il mangime, mettono a bollire il toccato e poi va distribuito per tutti gli animali che ci sono lì, capito? Tutti gli animali, i cani randagi che prendono, li curano, li tengono molto bene e li lasciano dentro, capito? Magari se c'è, per dire, qualcuno che interessa il cane, te lo danno, capito? Sì, ma lì c'è l'ala, quella bassa, hai visto che in 3 piani, no? Sotto elevato c'era la bassa, poi quella alta, ed è grande. parcheggio del cane, tu devi andare in ferie, perfetto, non c'è nessun problema, tu vai lì, fai la domanda in comune a chi è un cane, deve scegliere un microchip, tutti i cani che sono io avrei microchip, quelli di custodia, tu vai lì, fai la domanda, nome, cognome, il libretto sanitario, tutto, e poi si il cane e tu vai in ferie. Quanto devi stare in ferie? 10 giorni, ok, per 10 giorni te lo tengo io. Esci in magabalo, mi pare che sia 5 euro al giorno, una cosa del genere, e paghi. Tu devi lasciare il cane, paghi, e io te lo mantengo, quando ritorni te lo prendi. Capito? L'hai custodito, servito, reverito, c'è il lavaggio dei cani, dove mi munica, c'è la convenzione, quella che è sotto. Fatti male pure l'altro giorno. E poi siccome tutto c'è una cucina particolare, industriale, dove cucinano tutto quello che serve per i cani, ci sono due ditte convenzionate, una la casa animale, quella di Sassa e la grande, e l'altra mi pare che sia quella di Muro, se non mi ricordo che cos'è, se il caseificio, non mi ricordo, comunque mi hanno detto un caseificio, non so che cosa porti, non lo so. Quindi insomma c'è delle commissioni particolari dove permette al cane di far bene, cioè, ma tu se andi in vita giudito io avrai buona quindi fai queste cose allucinanti lì, lì. I cani addormentati uno sopra, coricati uno sopra l'altro, non dormono coricati uno sopra l'altro perché nella cuccia praticamente dove loro rimangono non c'è posto, capito? Ma lì già ho visto quella cane ricca, è un casino, dai. Non è un cane ricca, quello è un casino. Poi ci sarà un odore anche, per carità. Ui, per carità. No, lo sfumato lui è pulito, quello è un bel canile. Poi c'era un altro canile dove gli addeccavano proprio i cani, lì D'Alfonso Guarino, non so se c'è ancora lì a Poare. Non lo so, c'era quello lì di Codongiano, se mi pare, che però è morto, e quindi l'altro non so se, qual è quello, ho capito, non lo so fra se c'è ancora, non lo so se c'è ancora, però so che era un bravo detrattore, quello viaggiava forte, la grande. Viaggiava forte, mentre invece quello che c'era lì a cavallo con la Sisa, con la Siri Sisa, De Lola, che è morto, Giovanni De Lola, con il Porto Torres, so che addirittura aveva la convenzione per i cani, le trave cani della Polizia di Stato. Guarina, io la conosco, molto bravo, proprio bravo, esperto per addestrare tutti i cani, speciale con pastori tedeschi, altri tipi di cani, e via dicendo. Lui, aspetta, guarda bene, mi sta cercando la gloria. Buonanotte ragazzi, a domani, ciao. Dove tu mai? Buonanotte. Cosa fra? Hai detto non vedi mai, ciao, tutto buono. Ti sentiamo le puzze. Se mi senti, non lo so se mi senti. Sentiamo uno a radio incomprensibile. Ehi, no, è che sono qua sdraiato per vendere la bioccola. Adesso vi saluto. Così. Insomma, è più. Come si dice? Ogni volta vale che entro, cazzo, in cui in prima volta sono stato salutato, adesso mi approfitto, così dai. Perché se mi secondo un capo, è andata la cucina, buon ciao, e ti vi salutano. Va bene, vai. Ciao. sia, ci mettiamo d'accordo il telefono. Voi tranquillo, non c'è problema, già lo so. Sono qua, se hai notizie fammi sapere. Ciao, buonanotte. Ciao, Gabriella, buonanotte, che bella. Ciao, Fra, buonanotte, che bella. Attenta a te, tu che bella. Siano molti, tonico, vabbè sì, tanto te c'è un po' curvo dietro, e quindi è proprio quello della razza, capito? E perché ce ne sono varie razze, io ne ho visto qua. Ho visto passare tedeschi che non sono, perché c'è proprio passare tedesco puro puro, che rimane abbassato dietro e sollevato davanti, capito? Proprio quello puro, quello che c'è la polizia, i carabinieri e roba del genere. Bella, mettiamo la mia bella, lasciami, alta, grossa, stravigilante, una bella cagna. adesso invece è molto più sul marrone, lucida. Stiamo dicendo qua, loro, i cani lì, praticamente, ogni carabiniere sono aperto per loro, capito? Fanno addestramento, ognuno si addestra il suo cane. Ecco, di voi dicendo, non li ho sentito, poi non lo so sapere se sia così, E fra, ognuno sia finanziere che carabiniere, insomma, quelli del gruppo cinofilo hanno una votazione al cane, quindi è chiaro che devono addestrare il cane come non gli si chiede, e il cane a lui in votazione deve rispondere sui comandi, non può rispondere ai comandi di tutti, no? Cioè a lui il padrone in quel momento, perché con lui fa servizio, è un collega di lavoro quel cane, è un collega di lavoro, cioè lui deve rispondere ai comandi, lui lo porta presso, lo tiene con sé, capito, ci gioca, ci fa, le fa capire tante cose, al momento in cui il cane deve lavorare e c'è un controllo di narcotici, di cose, senza Rugani deve rispondere, perché se non risponde la fretta che se la fa lui, mica se la fa il corpo, e lui che adesso il cane a fare quello, e lui che lo comanda, e lui che gli insegna a fare determinate cose, non è che va con tutti, perché se dovesse andare con tutti allora non capisce più niente, il cane deve rispondere al suo padrone, in quel momento il finanziere, il carabiniere, il poliziotto è il suo padrone, in votazione a lui, quindi fa quello che dice lui. Certo. Oh, le 11:10, io me ne vado a nanna, No, non c'è problema. Non c'è problema, il momento era grandioso stasera, ci abbiamo fatto due chiacchiere un po' di tutto. Va bene, vai. Ti lascio in piena libertà. Ci sentiamo domani, non c'è problema, fra. 11:10, cata, 11:10, uia, trovano lavori della Fudi, ci vanno da lavorare, dovremmo che mi fanno i guanotti, avrebbe cambiato più di tanto il discorso, uia, mi sono chiuso le serrande, domani a lavorare, domani rientra Mario, e quindi ce n'è uno in più. No, non c'è neanche la riattante, e Carbonazzi, organizzato le amiche, c'è un po' lì. Niente, quindi non sono neanche accorto la verità, però mai non ci va di tenere così un po' di più, un po' di bordello, già senti silenzio. E quindi non sono neanche accorto che la numero 23:10, adesso mi sono lavato la testa, mi sto l'orologio, ci ho appeso l'organizzazione, mi sto 23:10. Se non mi sono vinto un radio, quindi stai. Stando alla radio, mi traduccio a volte piace. Va bene, fra, vai. Piena libertà, ci sentiamo domani, fammi sapere qualcosa e ci aggiorniamo come sempre a domani. Ciao, buonanotte, saluto a casa, Teresa. Un calcio in culo al Mimmo e ci sentiamo domani, ok? Buonanotte, buon gusto, sono te in casa, anche la parte mia, ci aggiorniamo domani, saluto gli avventori su WL che sono in ascolto, buonanotte a tutti, per me è QRT e me ne passo i 144, ciao ancora, buonanotte. Ciao, buonanotte, anche saluto a tutti, buonanotte, ciao. Ma ciao, ti porto giù la roba là, Claudio, ok, ciao. Ci aggiorniamo domani, non c'è problema, ci aggiorniamo domani, poi quando esci ci vediamo, ciao.